Beato l'uomo che non incespica con la lingua e non è afflitto dalla pena del peccato. Beato chi la coscienza non rimprovera e non ha perduto la sua speranza. All'uomo gretto la ricchezza non sta bene. Forse serve l'argento a chi è avido. Chi raccoglie con le privazioni, raccoglie per gli altri. Costoro potranno sperperare i suoi beni. Chi è nocivo per sé, come sarà utile agli altri? Egli non godrà le sue ricchezze. Non c'è peggio dell'uomo che risparmia con se stesso. Questa è la ricompensa del suo errore. Se fa il bene, lo fa per distrazione, ma alla fine sarà manifesto il suo errore. L'uomo dall'occhio cupido è un perverso, volta la sua faccia e non vede il bisogno. L'occhio cupido non si sazia con la sua parte. L'iniqua ingiustizia gli dissecca l'anima. L'occhio malvagio invidia il pane altrui, perciò la sua tavola è vuota. Figlio, goditi quanto possiedi, ma offri al Signore sacrifici generosi. Ricordati che la morte non perde tempo, né ti è stato rivelato il patto con l'Ade. Prima della morte fa del bene all'amico. Impegnati quanto puoi per aiutarlo. Non privarti dei giorni lieti e non ti sfugga nulla di un desiderio legittimo. Non lascerai ad altri il frutto delle tue fatiche e non passerà agli eredi il frutto dei tuoi sacrifici. Da e prendi, goditi la vita, perché nell'Ade non si cerca l'allegria. Ogni carne invecchia come un mantello, perché da sempre vige questo patto. Tu devi morire. Come foglie verdeggianti su florido albero, alcune cadono ed altre germogliano. Così è per la razza di carne e di sangue. Alcuni muoiono ed altri nascono. Ogni opera corruttibile passa, e chi la compie sparisce con essa. Beato l'uomo che si dedica alla sapienza, che riflette con l'intelligenza, che medita in cuore le sue vie e penetra nei suoi segreti. Esci dietro ad essa come un cacciatore e sta in agguato là dove passa. Chi la spia attraverso le finestre, l'ascolta attraverso le sue porte, s'accampa vicino alla sua casa, pianta il picchetto tra le sue mura e pone la tenda al suo fianco, abitando nella dimora d'ogni bene, costui ha posto i figli al suo riparo e risiede all'ombra dei suoi rami. Essa lo proteggerà dal calore ed egli abiterà nella sua gloria.